Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto. Questo mese trasmetto da Roma, dove mi trovo per un incontro della mia congregazione. Io appartengo ai padri paolini fondati da Don Giacomo Alberione, quindi trasmetto proprio all'ombra di uno dei nostri santuari più delicati, più belli, dedicati proprio a Maria Regina degli Apostoli. Ecco, la nostra trasmissione porta il titolo La tua parola mi fa vivere. L'obiettivo è già racchiuso in questo titolo. La parola è non solo il nutrimento della nostra vita, ma la linfa che ci fa crescere, che ci plasma, che ci accompagna nel cammino dell'esistenza. L'obiettivo di questi nostri appuntamenti mensili è quello di leggere un testo biblico di continuo, quindi dalla prima pagina all'ultima, e stiamo facendo la lettura continua del testo degli Atti degli Apostoli. Il capitolo a cui siamo arrivati è il capitolo 21, quindi invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere in mano un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di aprirlo al capitolo 21 degli Atti degli Apostoli. Questa sera insieme rifletteremo su un momento delicatissimo della vita di Paolo. Quando Paolo, arrivato a Gerusalemme al termine di tutto il suo ministero, praticamente viene catturato e inizia il lungo periodo della sua prigionia. Ecco, prima di iniziare la nostra lettura commentata, invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo, perché solo lo Spirito ha la forza di rendere viva la parola e soprattutto di renderla incisiva, perché non raggiunga solo la nostra testa, ma il cuore e la vita. Quindi mi affido a Lui, come affido ciascuno di voi, cari ascoltatori, all'azione dello Spirito. Ecco, la nostra lettura si era interrotta in occasione dell'ultimo nostro appuntamento sugli Atti degli Apostoli, con l'arrivo di Paolo a Gerusalemme. E Paolo arriva a Gerusalemme al termine dei suoi viaggi missionari, e l'arrivo alla Città Santa assume per lui un significato molto intenso, molto particolare. Paolo a Gerusalemme vuole portare il frutto del suo ministero tra i pagani, sottolineando che da parte sua non sente la rottura con la Chiesa Madre delle origini, ma al contrario cerca la comunione e invita la stessa Chiesa Madre delle origini ad aprire il proprio grembo all'accoglienza di questi nuovi figli. Insieme a sé porta alcuni suoi collaboratori, ci sono sia giudeo-cristiani che pagano-cristiani, e insieme a loro porta il frutto della carità delle sue comunità, un segno concreto che le comunità fondate da Paolo, nate dal suo Vangelo, dalla sua predicazione, hanno a cuore le povertà e la miseria in cui vive a motivo della carestia e a motivo anche dei tempi non facili, delle persecuzioni, situazioni non facili che vive la comunità di Gerusalemme. Quindi sotto il segno di questa raccolta di fondi che porta il nome di colletta, Paolo porta un segno concreto, quindi una comunione non solo simbolica, non solo teologica, ma una comunione che si fa gesto concreto di vicinanza alla Chiesa Madre di Gerusalemme. Ecco perché la colletta porterà nelle lettere di Paolo nomi forti come koinonia, cioè segno di comunione, liturgia, cioè atto di culto, diaconia, segno di servizio, cioè non è solo una raccolta di soldi per una comunità povera, ma è proprio un segno di comunione. La volta scorsa dicevamo che quando Paolo arriva nella Chiesa Madre di Gerusalemme, l'accoglienza non è così festosa come sembra, c'è una certa freddezza nei suoi confronti. Dopo averlo ascoltato i frutti di quelle che sono state le sue esperienze missionarie, gli viene subito chiesta una cosa che per uno come Paolo non era così semplice, cioè quella di recarsi nel Tempio a Gerusalemme e portare con sé 4 uomini fedeli della comunità della Chiesa Madre che avevano fatto un voto e che dovevano sciogliere, pagando per loro tutto ciò che era necessario allo scioglimento del voto. Era tutto un rituale, abbiamo visto, che richiedeva un certo quantitativo di soldi, di denaro per acquistare il materiale necessario per i sacrifici, che durava 7 giorni, che richiedeva l'osservanza di alcuni riti, che Paolo in parte considerava superati, le codificazioni della legge erano in un certo senso state messe in secondo piano per la priorità del Vangelo. Bene, abbiamo visto che Paolo a tutto questo si sottopone proprio per dare un segno anche in questo della sua unità con la Chiesa Madre. Bene, nella trasmissione di questa sera noi vedremo cosa succede a Paolo. Ed entriamo subito nella lettura del testo che ci informa cosa succede a Paolo proprio in questa situazione. Siamo, ripeto, al capitolo 21 degli Atti degli Apostoli, al versetto 27. Stavano ormai per finire i 7 giorni, quando i giudei della provincia dell'Asia, come lo videro nel Tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui gridando: «Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti, dovunque, contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ora ha perfino introdotto dei greci nel Tempio e ha profanato questo luogo santo. Avevano infatti veduto poco prima Trofimo di Efeso in sua compagnia per la città, e pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel Tempio. Allora tutta la città fu in subbuglio e il popolo accorse. Afferrarono Paolo, lo trascinarono fuori dal Tempio e subito furono chiuse le porte. Stavano già cercando di ucciderlo, quando fu riferito al comandante della corte che tutta Gerusalemme era in agitazione. Immediatamente egli prese con sé dei soldati e dei centurioni e si precipitò verso di loro. Costoro, alla vista del comandante dei soldati, cessarono di percuotere Paolo. Allora il comandante si avvicinò, lo arrestò e ordinò che fosse legato con 2 catene. Intanto si informava chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla però chi gridava una cosa, chi un'altra. Non riuscendo ad accertare la realtà dei fatti a causa della confusione, ordinò di condurlo nella fortezza. Quando fu alla gradinata, dovette essere portato a spalla dai soldati a causa della folla. La moltitudine del popolo infatti veniva dietro urlando: «A morte! A morte!». Allora, notiamo subito da questo primo brano che proprio alla fine dello scioglimento del rito, quel rito che doveva servire per dimostrare la fedeltà di Paolo alla Torah, alla legge, al Tempio, diventa il momento del suo arresto. Ed è un momento molto, molto concitato. Si parte da alcuni che aizzano tutta la folla, e guarda caso sono gente che proviene dall'Asia, ci viene detto, cioè dalle zone attorno ad Efeso. Non dimentichiamo che Paolo ad Efeso visse una delle prigionie più dure, e nella comunità di Efeso subì una sorta di persecuzione molto forte, non solo da parte dei famosi argentieri del Tempio di Artemide, ma anche dei giudei della comunità, che vedevano proprio in Paolo una grande minaccia. Quindi questa doppia minaccia che aveva caratterizzato Efeso si ripropone con la stessa concitazione nel Tempio, nella zona di Gerusalemme, nel Tempio Santo di Gerusalemme. E ovviamente nel momento in cui in una zona, in un ambiente per quanto ampio, però sempre chiuso, ci sono alcuni che aizzano la folla, il caos è immediato. l'area del Tempio viene ben descritta in questo episodio, perché si nota che c'è una parte del Tempio dove possono entrare i pagani, un'altra parte dove invece potevano entrare solo i giudei, soprattutto per compiere riti e sacrifici, come era il caso di Paolo con i quattro uomini. Quindi Paolo viene portato fuori dalla parte dedicata solo ai giudei, viene chiusa l'area riservata ai giudei, mentre dalla fortezza Antonia si precipitano il comandante delle guardie, i centurioni, i soldati, per bloccare questo sedizioso. Tra l'altro tutto avviene senza sapere chi Paolo sia. Il comandante delle guardie cerca di capire cosa è successo, qual è la pericolosità di questa persona, però non riesce a rendersi conto di chi ha davanti, di chi è la persona che sta incatenando, perché nella folla uno grida una cosa, uno grida l'altra. Sullo sfondo sembra ripetersi, questa volta però in un contesto pienamente ebraico, sembra ripetersi quello che è successo a Efeso. Anche in quella cornice chi diceva una cosa, chi diceva un'altra, però non si riusciva a capire il motivo per cui Paolo era stato arrestato. Quello che è per noi importante è che in questo brano, dove Paolo viene arrestato, e questa prigionia, non dimentichiamola, è una prigionia che durerà parecchi anni, perché ci saranno gli anni, ci sarà il periodo in cui resta a Gerusalemme, che non è un periodo prolungato. Andrà poi a Cesarea, dove sosterrà per 2 anni come prigioniero. Nel contesto della prigionia di Cesarea, Paolo si appellerà a Roma. Quindi ci sarà il lungo viaggio da Cesarea a Roma e poi ancora agli arresti domiciliari, verosimilmente ancora 2 anni. Quindi Paolo ha davanti a sé un lungo periodo di carcere, e l'inizio di questo lungo periodo di carcere avviene proprio qui a Gerusalemme. Quali sono i capi di accusa? Il capo di accusa è racchiuso nel versetto 28. Questo versetto è particolarmente importante perché in sintesi ci dice il fulcro del ministero e dell'annuncio portato dall'apostolo Paolo. Allora ascoltiamo. Quelli che hanno messo le mani su di lui gridano: uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Notiamo. Una caratteristica di Paolo è l'annunciatore che insegna a tutti e dovunque, l'apostolo delle genti, ma non solo l'apostolo delle genti, è l'apostolo delle genti e dei giudei. Qui a Gerusalemme emerge che Paolo è una minaccia, perché con la sua presenza, con il suo insegnamento, con il suo annuncio, lui mina le basi dell'identità ebraica. Però quello che subito viene messo davanti è l'apostolo universale, l'apostolo dal cuore grande, che ha di fronte a sé tutti e dovunque, cioè tutti gli uomini e tutti gli spazi. E poi ci sono i 3 elementi della teologia di Paolo, che sono un pochino i 3 pilastri su cui si regge tutto il suo pensiero. Parla, insegna a tutti contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. E uno si dice: ma perché viene detto che Paolo parla contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo? La risposta la possiamo avere direttamente dalle lettere di Paolo. Nelle lettere di Paolo è chiaramente detto che Paolo inaugura una nuova visione di popolo di Dio, che corrisponde, se usiamo un linguaggio cristiano, a, si può dire, una nuova ecclesiologia. Cioè l'ecclesiologia di Paolo è diversa dall'ecclesiologia della Chiesa Madre di Gerusalemme, per quanto la Chiesa Madre pian piano stia facendo dei passi, spinta dallo Spirito, dagli eventi, dai fatti che la circondano. L'ecclesiologia di Paolo può essere racchiusa in quella frase dove Paolo dice, scrivendo ai Corinzi: non ci sono più giudei né greci, schiavi né liberi, uomini o donne, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. Cioè in Cristo Paolo ha ben chiara l'idea che sono cadute tutte le barriere di carattere sociale, religioso, politico, economico, ma in Cristo tutti diventano una sola cosa. Capite bene che per i giudei di Gerusalemme, che comunque hanno interiorizzato una visione di popolo di Dio, dove al centro c'è il popolo eletto e tutti devono convergere nel popolo eletto facendo propria la Torah con tutte le sue prescrizioni, questa apertura a pagani e a giudei e a greci, a uomini e donne, a schiavi e a liberi, mettendoli tutti sullo stesso livello, perché in tutti vive il Cristo, inaugura una visione nuova che va a minare il principio del popolo eletto. Ecco perché dicono che Paolo parla contro il popolo. Secondo punto, che è un elemento chiave della teologia di Paolo, è contro la legge, viene qui detto. Perché dicono che Paolo è contro la legge? Perché la rilettura di Paolo nella sua teologia cambia la posizione della legge, cioè la legge non è più la porta di accesso alla salvezza, ma un pedagogo, cioè una sorta di educatore, che ti porta a Cristo. La legge è una sorta di scuola elementare che ti introduce, scuola primaria, che ti introduce alla vita vera e propria, scuola primaria, scuola secondaria, che ti introduce alla vita vera e propria, alla maturità di vita, ma la maturità di vita non te la può dare la legge, la maturità di vita te la può dare solo il Cristo vivo dentro di te. Per cui la legge è vista come una sorta di preparazione all'accoglienza del Cristo. Capite bene quindi che non basta osservare la legge per avere la salvezza, come ritenevano i giudei del tempo. La cosiddetta, tutto il principio della giustificazione, cioè di riuscire a impostare un rapporto con Dio dove arrivo al livello di Abramo, di Mosè, dove lo guardo faccia a faccia, dove entro in un'intimità tale per cui Dio vive in me. Questo è possibile non grazie all'osservanza della legge, ma grazie all'accoglienza di un dono che mi precede, di un dono più grande, grazie alla relazione con il Signore. Solo quando riscopro la relazione con il Signore, il dono che mi viene da Lui, la mia vita viene trasfigurata, la mia vita cambia. Capite che anche questo rivoluziona il principio della legge presente all'interno del popolo ebraico. E poi arriva il terzo elemento su cui Paolo viene accusato, non solo contro il popolo e contro la legge, ma anche contro questo luogo. E per questo luogo si intende il Tempio. Paolo, in tal senso, continua l'insegnamento di Gesù, dove il Tempio anche viene relativizzato. Il nuovo Tempio, nella visione di Paolo, è il mondo, è il Tempio costruito dai credenti, credenti che sono pietre vive dell'unico edificio che è Cristo. E più volte anche Paolo utilizza l'immagine dei sacrifici per indicare il vero culto cristiano: offrite voi stessi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, santificate Dio nel vostro corpo. Voi siete il Tempio di Dio, le vostre membra sono il santuario di Dio. Quante volte noi troviamo queste espressioni all'interno delle lettere di Paolo? E c'è come uno sviluppo anche all'interno della teologia degli scritti neotestamentari, no? Dove c'è tutto il culto ebraico, viene riletto in modo decisamente nuovo alla luce del culto cristiano. Si passa dalle lettere protopaoline alle lettere deuteropaoline, pensiamo ad esempio allo sviluppo che c'è tra la lettera ai Corinzi, la lettera agli Efesini, e poi si arriva al grande trattato sul nuovo culto cristiano che noi troviamo ad esempio nella lettera agli Ebrei. C'è proprio un percorso cronologico di approfondimento dove però le basi della visione ebraica vengono totalmente rilette da Paolo. Quindi l'arresto di Paolo diventa fin dai suoi primi istanti un momento fecondo, perché Paolo non solo ha la possibilità di parlare, come vedremo tra poco, non solo ha la possibilità di parlare, ma anche ha la possibilità di presentare i veri punti della sua figura che danno fastidio. Quindi sono i punti che hanno a che fare con la visione del popolo di Dio, la visione della legge e la visione del luogo santo. Bene, prima di continuare con la lettura e vedere come Paolo affronta la situazione, lasciamo un breve stacco musicale, in modo che anche voi, cari ascoltatori, potete magari rileggere questo brano e, come dire, approfondire, maturare quelle domande su cui poi ci confronteremo. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché continueremo nella lettura e nel commento. Ecco, quindi siamo arrivati al momento in cui Paolo viene arrestato. Vediamo come continua il nostro testo per notare, per sottolineare come Paolo reagisce a questo momento delicato. Sul punto di essere condotto nella fortezza, Paolo disse al comandante: «Posso dirti una parola?» Quello disse: «Conosci il greco? Allora non sei tu quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto i 4.000 ribelli?» Rispose Paolo: «Io sono un giudeo di Tarso, in Cilicia, cittadino di una città non senza importanza. Ti prego, permettimi di parlare al popolo». Egli acconsentì, e Paolo, in piedi, sui gradini, fece cenno con la mano al popolo. Si fece un grande silenzio. Ed egli si rivolse loro ad alta voce in lingua ebraica dicendo: allora, notiamo subito una cosa. Paolo approfitta di questo momento per trasformarlo in annuncio. Quel «posso dirti una parola» diventerà un discorso molto lungo e un discorso di annuncio. E qui già tra le righe noi cogliamo una cosa importante. Tutti i momenti di prigionia dell'Apostolo Paolo sono dei momenti estremamente fecondi. Noi a volte ci pensiamo poco, ma un terzo di tutto l'apostolato e di tutto il ministero di Paolo si svolge in prigione. E noi facciamo di Paolo l'apostolo delle genti, immaginandolo sempre come un instancabile camminatore, e di fatto Paolo è anche un instancabile camminatore. Però, non dimentichiamo, Paolo vive un terzo del suo ministero chiuso in prigione. E questo ministero chiuso in prigione è uno dei momenti più fecondi del suo annuncio. Cioè, davvero in Paolo rivive il mistero della croce. Quando noi ci poniamo davanti a una croce, cosa vediamo? Vediamo un uomo spoglio, bloccato, nudo, fermo, inchiodato, non può muovere le mani, non può muovere i piedi, è umiliato dal dolore, è prostrato, è tutto esposto. Però quello è il momento, è il luogo da cui scorga la salvezza. E lo stesso avviene per Paolo. La pagina della prigionia è la pagina di maggiore fecondità. Da lì scorga quella parola che salva. Quindi non è solo un «posso dirti una parola», ma posso trasformare anche questo momento così travagliato, così duro, come momento di annuncio. Penso che una lettura di questo tipo possa dare anche tanta luce, tanta consolazione a molti di voi ascoltatori che magari si trovano a vivere una fase della vita è provata dalla malattia, provata dall'anzianità, provata da tante realtà della vita, no? E a volte dimentichiamo che sono proprio questi i momenti più profondi, perché sono i momenti in cui non siamo noi a dirigere la nostra vita, ma chi la dirige è un altro e riesce a servirsi più liberamente di noi. Siamo, come dire, un pochino più spogli del nostro io. Ecco, in questo contesto notiamo che il comandante delle guardie resta stupito, perché si rende conto che lui ha già fatto una lettura che è sbagliata, cioè pensava che Paolo fosse l'egiziano. Chi è questo egiziano? L'egiziano era un sobillatore politico, tra l'altro menzionato anche da uno storico non cristiano come Giuseppe Flavio, era uno storico giudeo-romano, che aveva mobilitato una grande folla promettendo di far crollare le mura di Gerusalemme in attesa dei tempi messianici. Era un sobillatore politico che assicurava la cacciata dei romani, quindi capiamo anche l'intervento preoccupato del comandante delle guardie. Di fronte all'evidenza che Paolo non è quel genere di persona e che anzi si rivolge con un posso dirti una parola, cioè in un modo anche abbastanza garbato, la situazione comincia a cambiare. E il luogo dell'arresto cosa diventa? Diventa un pulpito. Paolo in piedi sui gradini, che fa cenno con la mano, che parla in piena dignità, con attorno a sé un grande silenzio che non si sarebbe mai sognato in un'altra occasione. E tutto questo matura nella cornice della persecuzione. Ora, adesso ascolteremo questo discorso che è diviso in 5 parti, ma quello che colpisce subito è che Paolo racconta un'altra volta la sua esperienza di rivelazione. Ora, l'esperienza di rivelazione sulla via di Damasco Paolo la racconta 3 volte nel libro degli Atti. La prima volta è sulle labbra del suo discepolo di Luca, che compone la storia e narra questo episodio lungo la via. Cioè, i discepoli della via stanno crescendo di numero e un tassello importante, come una perla preziosa incastonata nella storia, è l'esperienza di Paolo sulla via di Damasco. Ora, questa esperienza viene riproposta nel luogo chiave del mondo giudaico, cioè nel cuore del Tempio di Gerusalemme, e più avanti verrà riproposta una terza volta nel luogo chiave dove dove sono presenti i pagani in Terra Santa, cioè Cesarea, che era la sede ufficiale del procuratore, questa città affacciata sul mare, che già prepara anche una testimonianza davvero a tutto il mondo della situazione di Paolo. Quindi anche qui ci sono ovviamente dietro dei codici narrativi che permettono a Luca di far capire quanto l'esperienza di rivelazione vissuta da Paolo sulla via di Damasco è davvero centrale per tutti, cioè per i discepoli della via, per il mondo ebraico in questo caso e poi per il mondo pagano. Bene, e su questo sfondo vediamo il racconto, cioè la testimonianza di Paolo di quello che gli è successo sulla via di Damasco e il testo è racchiuso nei versetti da 1 a 21. Per comodità però lo suddivido nelle sue 5 parti facendo dei brevi commenti. Cominciamo con la prima parte. Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi. Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Ed egli continuò: io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Allora, la prima parte del discorso è dedicata alla formazione di Paolo. Tutto inizia con un io. L'io di Paolo è un io legato all'ebraismo. Io sono un giudeo. Tengo a sottolineare, Paolo non dice io ero un giudeo, Paolo dice io sono un giudeo. In Cristo nulla è buttato dell'esperienza passata, ma l'esperienza passata è riletta, trova in Cristo la sua luce interpretativa fondamentale. Come Gesù dice che non c'è uno iota, un segno della legge che viene buttato, lo stesso vale per Paolo. Paolo è giudeo, è stato formato giudeo e il suo giudaismo riceve ora compimento. Come elementi che accreditano la sua formazione, dice il luogo dove è nato, dove esisteva una colonia ebraica davvero molto, molto forte e rinomata, educato a Gerusalemme, viene sottolineata la scuola da cui proviene, che era la scuola di Gamaliele, discendente di Hillel, quindi era una delle scuole fondamentali, e poi da questa definizione, che è una definizione particolare che dobbiamo saper leggere bene, cioè Paolo si definisce pieno di zelo per Dio come oggi siete tutti voi. Ora, questa espressione di pieno di zelo per Dio è una definizione ambigua. Perché? Perché lo zelo di cui parla Paolo richiama un'espressione anticotestamentaria che ha a che vedere direttamente con il grande profeta, il profeta del fuoco, cioè il profeta Elia. Proprio in questi giorni la liturgia ci accompagna presentandoci tutto l'itinerario umano e spirituale del profeta Elia. Un itinerario che inizia con il pieno zelo per Dio. Però attenzione, lo zelo per Dio può fare anche molti danni. E abbiamo visto i danni che nei giorni scorsi nella liturgia, i danni che lo zelo per Dio ha provocato in Elia. Danni di siccità, per cui lo zelo per Dio ha fatto piombare un'intera terra per volere di Elia nella siccità, danni di sangue, 450 profeti di Baal scozzati al torrente ai piedi del Carmelo, danni legati a una visione di Dio particolarmente intollerante, dove tutto il popolo di Israele riceve una lettura particolarmente negativa, no? Ed è interessante che quando poi tutto questo non sortisce gli effetti desiderati, Elia cade in depressione. E allora abbiamo quell'angelo che lo spinge verso l'Oreb, verso il monte di Dio, e dove Dio si rivolge a lui dicendo: che fai qui, Elia? E la risposta di Elia è: sono pieno di zelo per Dio, racconta la sua visione della storia molto negativa e poi si chiude dicendo: sono preoccupato per me perché cercano di togliermi la vita. E non c'è verso, cioè questa è la sua lettura all'inizio e alla fine della rivelazione di Dio, come se la rivelazione di Dio non riesca nemmeno a farsi spazio in questo zelo per Dio. Quando riesce a farsi spazio? Quando gli dà un comando. E gli dice: ritorna sui tuoi passi e cammina verso il deserto di Damasco. E allora qui capiamo, no? Paolo sta raccontando l'esperienza del suo cammino che va da Gerusalemme a Damasco. E tutto inizia con pieno di zelo per Dio. Però già in questa espressione lui rilegge la sua esperienza alla luce della figura di un grande profeta, il grande profeta Elia, cioè mette a sostegno dell'esperienza che lui ha vissuto la grande trasfigurazione che Elia vivrà nella sua stessa vita, ripercorrendo in un certo senso il percorso fisico, ma anche il percorso spirituale di quell'uomo. Andiamo avanti, quindi il primo momento del discorso sottolinea la formazione di Paolo. Secondo momento del discorso: io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi in testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stavano là, perché fossero puniti. Quindi, dopo la formazione, Paolo sosta sulla pagina della persecuzione e sostando sulla pagina della persecuzione, prima di tutto dà i riferimenti di tutte le persone che lo conoscono, di tutte le persone che lo hanno accreditato con lettere perché lui potesse andare a fare prigionieri i cristiani per portarli a Gerusalemme perché fossero puniti. Dimostra che questo zelo per Dio era davvero qualcosa di convinto, che lo coinvolgeva, che lo investiva, fino al punto di perseguitare a morte, cioè desiderare a morte. Quello che è molto bello è il nome che lui dà ai cristiani, li chiama i discepoli della via, e il cristianesimo viene qui chiamato via, questa via, io perseguitavo a morte questa via. Ovviamente nel momento in cui Paolo parla della persecuzione, Paolo parla di sé come un uomo pieno di zelo per Dio, già presenta però il cristianesimo come un percorso di vita, cioè come non qualcosa di codificato nella legge, ma come qualcosa che ti si impianta dentro e che pian piano cresce dentro di te. È un cammino di continua conversione, in cui Paolo, senza saperlo, si trova già ad essere coinvolto. Il seme è già stato messo all'interno del suo cuore e questo seme pian piano sta producendo i suoi frutti, anche se in questo momento prevale ancora il discorso della persecuzione. E arriviamo al terzo momento del discorso, che dopo la formazione, dopo la persecuzione, si sofferma sulla rivelazione, cioè sul momento di luce vissuto sulla via di Damasco. Ecco il testo. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso, una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei, Signore?» Mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che devo fare, Signore?» E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Allora, notiamo come viene descritta la rivelazione sulla via di Damasco. Prima di tutto, la rivelazione viene descritta come il momento in cui l'io viene scalzato, tutto l'ego di Paolo viene spodestato. Fino adesso abbiamo quasi avuto l'impressione che lui fosse in viaggio da solo, che facesse tutto lui. Alla fine troviamo un Paolo che viene guidato per mano dai miei compagni giunsi a Damasco. Cioè un Paolo che finalmente trova una certa sintonia con gli altri, che non fa più un cammino da solo, ma cammina con gli altri. All'inizio sembrava avere tutte le idee chiare, aveva gli obiettivi, aveva le lettere, aveva la meta precisa. Alla fine abbiamo a che fare con una persona cieca, ma accecata non per piombare nella notte della morte, ma accecata da una luce troppo forte che ha bisogno di interiorizzare. Quali sono gli elementi forti della rivelazione di Paolo? Non sono certamente né la caduta a terra, né la grande luce, né la voce. Questi elementi sono elementi esterni che servono per aiutare a capire quello che è successo a Paolo, tanto vero che in questo racconto viene addirittura detto che la voce non l'hanno sentita nessuno, anche se quelli che erano con lui hanno visto una luce. Quindi è come se questi aspetti che servono per dare concretezza all'esperienza di Paolo siano secondari rispetto a quello agli elementi centrali, che sono proprio anche gli elementi centrali da un punto di vista narrativo del racconto. E quali sono gli elementi centrali? È chi sei, o Signore? È questa domanda: chi sei, o Signore? Cioè tutto parte da questa domanda di fondo. Per la prima volta Paolo, dopo la sua formazione, dopo la persecuzione, per la prima volta Paolo si pone l'interrogativo serio su Dio, cioè tutte le convinzioni che gli sono state trasmesse lungo gli anni stanno andando in frantumi. Un sasso è come il sassolino della grande statua vista da Daniele, no? Un sasso ha colpito il punto debole e l'impero che Paolo si era costruito nella sua testa attorno alla legge si sta sgretolando. E la risposta a questa domanda è: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Cioè Gesù nella risposta si identifica come una presenza viva all'interno della comunità perseguitata. E allora anche qua si sgretola proprio la visione di Dio. Dio non è colui che è il santo, che abita il santo dei santi, irraggiungibile all'uomo, ma è l'uomo di Nazareth, Gesù, che vive da risorto nella vita dei perseguitati. E Paolo sa che quell'uomo che vive nella comunità perseguitata è il crocifisso, è emblema di maledizione, e quindi c'è una rivoluzione radicale della visione di Dio. Perché la visione di Dio provoca un cambiamento, una trasfigurazione nell'uomo che accoglie questa visione? Ma molto semplice, perché noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi se noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, noi per capire chi siamo dobbiamo guardare a Dio. Se io ho una visione sbagliata di Dio, state pur certi che avrò una visione sbagliata di me stesso. Ecco perché il chi sei Signore va a incidere sulla lettura che Paolo dà di sé. Rivoluzionare la visione di Dio significa rivoluzionare la figura di sé. Se io ho una visione di Dio come legge, come qualcuno che è vendicativo, che mi guarda dall'altro per vedere i miei errori e le mie vittorie, state pur certi che la mia vita ne risentirà e anche i miei rapporti con gli altri ne risentiranno, e io sarò uno esigente, rigido, chiuso. Se invece la mia visione di Dio è quella del Dio che ha donato tutto, si è spogliato di tutto per venirmi incontro, state pur certi che la mia visione di me e delle relazioni non potrà che essere inclusiva, mite, capace di servizio, perché il chi sei Signore è fondamentale per il nostro stile di vita. E allora questa profonda trasformazione che Paolo vive sulla via di Damasco è qualcosa che pian piano, come una macchia d'olio, raggiungerà non solo tutta la sua vita, ma anche tutte le persone che lui incontrerà. Ed è interessante, alla domanda cosa devo fare, il Signore non risponde, gli dice vai verso Damasco, là ti sarà detto cosa devi fare. Perché non gli dice subito quello che lo aspetta? Perché Paolo deve ancora avere conferma concreta che Cristo vive nella comunità perseguitata di Damasco. In caso contrario, forse avrebbe rischiato di vivere quell'esperienza sulla via di Damasco come un'allucinazione, un abbassamento di pressione, un essere colpito dalla luce di mezzogiorno. E notate ancora l'affinità con l'esperienza di Elia. Elia sull'Oreb viene rimandato a Damasco, e a Damasco dovrà compiere dei gesti ben precisi, cioè scegliere uno, scegliere quell'altro e poi andare a chiamare a Eliseo perché inizi il cammino di discepolato con lui. A Damasco Paolo vive la stessa cosa, cioè Anania gli dà il mandato, gli dirà quello che deve fare. Quindi abbiamo visto il momento della formazione, il momento della persecuzione, il momento della rivelazione. Il racconto di Paolo continua nella quarta parte del suo discorso, e la quarta parte del discorso è quella che vede coinvolto Anania e che quindi dà il mandato a Paolo. Ascoltiamo. Un certo Anania, devoto osservante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere. E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché egli sarà testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Ecco, questo momento, che è il momento praticamente del mandato, vede da parte di Paolo l'esperienza concreta, cioè Paolo si rende conto che quanto ha sperimentato è reale, è vero. E è molto bello anche qui la sintesi che fa Anania nel suo discorso quando gli dice: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a che cosa? Tre cose: conoscere la sua volontà, vedere il giusto, ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini. Allora, notate, in questi tre elementi ci sta la vera esperienza di fede. La vera esperienza di fede che cos'è? Conoscere la volontà di Dio, la mente, vedere il giusto, è interessante, ad un ebreo pieno di zelo, Gesù viene presentato come il tzaddik, cioè il giusto per eccellenza, colui che compie in sé la legge, cioè Gesù è il giusto, nel senso che è colui che compie la legge, quindi conoscere la sua volontà, vedere il giusto e ascoltare una parola dalla sua bocca, quindi c'è la conoscenza, la visione e l'ascolto, dove l'elemento dell'ascoltare la parola è l'inizio di una nuova creazione, perché sappiamo che la parola che proviene da Dio è una parola che non appartiene al campo semantico del dire, ma al campo semantico del fare, cioè la parola di Dio è una parola che crea, che fa, che trasforma, che abita il caos e lo trasforma secondo il disegno di Dio. Quindi è questa triplice esperienza che avvolge Paolo: la sua conoscenza, la sua visione, il suo ascolto hanno come obiettivo cosa? La testimonianza davanti a tutti gli uomini. E quindi tutto si conclude in quella immersione che è annunciata da queste parole, cioè nell'immersione battesimale. E arriviamo quindi all'ultima parte, che è la parte proprio della missione. Dell'apostolato di Paolo, con cui termina il discorso. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva: affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: Signore, essi sanno che facevi imprigionare per cuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Ma egli mi disse: va, perché ti manderò lontano alle nazioni. Quindi la quinta parte del discorso, che è quella conclusiva, Paolo viene presentato come colui che inizia già la sua esperienza missionaria e cerca di farla a Gerusalemme, però a Gerusalemme viene avvertito dal Signore che deve lasciare la città. Paolo inizialmente fa resistenza dicendo: ma no, io posso essere segno della trasformazione, perché tutti qua sanno che perseguitavo. Ma il Signore interviene dicendo: no, guarda che ti uccideranno, va, perché non devi rimanere a Gerusalemme tu, devi andare lontano tra le nazioni. Quindi questo racconto della rivelazione sulla via di Damasco ha come punto culmine, come punto più alto, come vertice, l'annuncio alle nazioni. Tutto inizia con la formazione a Gerusalemme, tutto finisce con l'annuncio alle nazioni, con l'annuncio alle genti, cioè l'elemento per cui Paolo è stato aggredito e fermato nel Tempio di Gerusalemme. Tanto vero che quando Paolo dice questa parola, cosa succede? Si scatena di nuovo la folla. Se fino a questo momento hanno fatto silenzio, a questo punto si scatenano e dicono: fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando: togli di mezzo costui, non deve più vivere. E poiché continuavano a urlare, a gettare via i mantelli, a lanciare polvere in aria, il comandante lo fece portare nella fortezza, ordinando di interrogarlo a colpi di flagello, per sapere perché mai gli gridassero contro in quel modo. L'annuncio, il primo annuncio di Paolo all'interno del Tempio di Gerusalemme, sembra finire del tutto male. ma ci sono alcune sorprese che ci attenderanno. Ora, è sempre un pochino mio desiderio fare di questi nostri momenti di riflessione un momento anche di scambio con voi ascoltatori. Quindi io termino qui la mia lettura commentata per lasciare spazio ai vostri interventi, ai vostri interrogativi, alle vostre brevi riflessioni. Quindi lascio a questo punto la parola alla regia che vi darà alcune indicazioni per contattarmi in questa trasmissione in modo da poter porre le vostre domande e magari continuare a scavare questi versetti, questi capitoli, questa testimonianza dell'Apostolo Paolo, magari cogliendo alcuni aspetti inediti che durante la riflessione sono rimasti inosservati. Quindi lascio la parola alla regia e resto in attesa delle vostre domande. Buonasera, con chi parlo? Vorrei non lo dire il nome, per favore. Va bene, non si preoccupi. Mi scusi, non è per lei. Allora, senta, io ho avuto ho sentito la sua omelia, no? E fra cui lei ha detto, noi siamo nati simili a Dio, vero? Noi siamo sì. L'immaginazione che Dio ci ha fatto come Lui, è vero o no? Qual è la domanda? È questo, che io ho avuto una discussione, che noi siamo nati da una scimmia, non da che Dio ci ha fatto somigliante a Lui. Io mi sono combattuta che dico, noi siamo somiglianti a Dio, Dio ci ha fatto somigliare come Lui. E invece questo signore che era proprio un istruito, o non lo so, che mi diceva che lui la Bibbia è andato dietro, dice siamo nati dalla scimmia. Allora, cara signora, quello che ho richiamato è praticamente l'inizio di tutta la creazione, no? Noi sappiamo che i primi capitoli della scrittura, cioè i primi 11 capitoli della scrittura, non hanno come obiettivo principale quello di descrivere storicamente o scientificamente i fatti come sono andati, ma di darci il significato profondo della realtà del creato ed è soprattutto della realtà umana. Quindi quello che a noi deve stare a cuore è questo significato profondo, che per quanto riguarda l'uomo è racchiuso nei versetti 26-27 del primo capitolo della Genesi, dove noi leggiamo così: Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, cosa notiamo? Notiamo che per ben due volte, in prosa e in poesia, viene detto che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, vale a dire porta in sé il DNA di Dio, e questo dà una dignità enorme alla nostra identità. Se noi vogliamo capire chi siamo, dobbiamo metterci davanti al volto di Dio. Questo è l'elemento essenziale da custodire, non solo. Ma se quando vengono creati gli animali all'inizio del sesto giorno, viene detto che Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie, e Dio vide che era cosa buona, quando crea l'uomo, l'uomo non viene creato secondo la sua specie, l'uomo viene creato a immagine e somiglianza di Dio. Quindi quello che va custodito è proprio questo DNA divino. Più noi ci mettiamo davanti a Dio, più noi capiamo chi siamo. Questo va custodito, indipendentemente da ogni discussione e da ogni possibile, come dire, fraintendimento. E non dimentichiamo che anche la creazione dell'uomo è accompagnata da uno sguardo di Dio che dice: Dio vide che era cosa non solo buona, ma molto buona. La ringrazio per la sua domanda, ma invito chi chiama a cercare a rimanere nel tema, cioè stiamo parlando di San Paolo, cerchiamo di approfondire l'Apostolo Paolo. Grazie. Pronto, buonasera. Grazie, Buonasera, sono Lucia da Firenze. Lucia, mi dica. Le volevo dire che era iniziata la sua meditazione meravigliosa sull'Apostolo Paolo, sono rimasta incantata proprio fino alla fine. Intanto, poi quello che mi ha colpito tanto, anche perché, dato che io in questo momento da tempo, insomma, sono un po' sono sofferente, non esco, e quando ha raccontato lei che Paolo ha testimoniato soprattutto quando era in prigione, lui ha passato un terzo della sua vita in prigione, a me mi ha fatto molta impressione questa cosa, non ci avevo affatto pensato per niente. E poi ha detto, come il nostro Signore sulla croce, con la sofferenza, ci ha redenti. Ecco, e allora, appunto, lei diceva anche che chi soffre, in fondo, ecco, chi è nella sofferenza, ecco, che sta vicino a Dio e testimonia. E questo mi ha fatto tanto bene sentirlo, guardi, veramente, la ringrazio tantissimo di questa meditazione su San Paolo, che è l'apostolo che io sono sempre incantata ad ascoltarlo. Grazie Lucia per questo tuo feedback, per questo tuo intervento, no? Pensa che Clemente Romano, quando parla di San Paolo, dice addirittura che Paolo visse sette momenti di prigionia e tutti questi sette momenti di prigionia furono dei momenti di prigionia prolungata e lui li ricostruisce uno dopo l'altro. E facendo un pochino il conto di tutti gli anni che Paolo è stato in prigione, davvero si arriva a un terzo del suo ministero. E questo terzo del suo ministero è davvero molto, molto esteso, perché uno immagina Paolo come sempre in cammino da un punto all'altro, sempre libero. Invece no, e lui stesso arriverà a dire pian piano durante l'approfondimento della sua teologia, no? La redazione delle sue lettere, che è proprio in questi momenti di debolezza in cui lui è chiuso nel carcere che sperimenta la fecondità di Dio e dove addirittura le catene diventano un motivo di vanto e un motivo che favorisce l'annuncio del Vangelo. E qua mi piace richiamare un'espressione, no, del mio fondatore. Il mio fondatore era decisamente appassionato all'Apostolo Paolo e tutte le congregazioni che sono nate sono radicate nel grande Apostolo delle Genti. E lui ci ricordava sempre di non dimenticare tra i nostri apostolati, cioè il nostro tradurre nell'oggi l'Apostolo Paolo, l'apostolato della sofferenza, perché dietro questo apostolato della sofferenza c'è questa pagina dell'Apostolo Paolo, dove il Vangelo raggiunge molti cuori grazie all'azione misteriosa della grazia. Grazie di cuore, Lucia, per questo tuo intervento. Pronto, buongiorno. Sono Buongiorno, con chi parlo? Miriam da Genova. Senta, Mi le dica. volevo chiedere, io ho sentito poi in ritardo e quindi forse non ho sentito la spiegazione all'inizio, però mi sembrava che avesse detto che Paolo, comunque avendo ucciso i cristiani, quindi avendo fatto delle cose abbastanza terribili, sia stato comunque vicino a Dio, nel senso che non ho capito bene in che modo poteva essere vicino a Dio, nel senso però dell'uccidere i cristiani, non so se ho capito bene. Agostino, per esempio, si era molto pentito di quello che aveva fatto, mentre San Paolo, che è un grandissimo apostolo, che ho letto tantissime lettere, ecco, è un apostolo di grandissimo valore, ma non capisco come sia possibile questa sua visione precedente alla conversione, della liberazione della via di Damasco, come sia possibile che sia stato vicino a Dio uccidendo delle persone, che si capisce che è una cosa grave. Allora, la ringrazio per la sua domanda, no? Giustamente si resta smarriti leggendo, no, alcuni passaggi, però dicevano che quando Paolo utilizza quell'espressione pieno di zelo per Dio, Paolo ci dà anche una chiave di accesso, e la chiave di accesso è quella di un profeta dell'Antico Testamento pieno di zelo per Dio. E questo profeta pieno di zelo per Dio è niente altro che il profeta Elia. Ora, quando si è pieni di zelo, lo zelo può anche trasformarsi in una robusta suggestione, cioè in una falsa spiritualità, in una falsa adesione, no? In una spiritualità che è più condotta dal cosiddetto spirito nemico che non dallo Spirito Santo. E quindi lo zelo come si traduce? Si traduce in una forma violenta che calpesta tutti quelli che non la pensano come me. Ora, dalle testimonianze che vengono date di Paolo, non riusciamo a capire se è arrivato fino al punto di uccidere i cristiani. Forse a quello non è arrivato, però è arrivato a una forma di persecuzione che includeva delle violenze fisiche, morali, psicologiche. Cioè c'era una sorta di pressione radicale, decisa, verso coloro che si dicevano cristiani, e questo sicuramente era aberrante, però dobbiamo tenere presente anche il contesto del tempo, cioè non sono cose che sono nemmeno tanto lontane dai nostri tempi. A volte uno crede di difendere la purezza della propria fede calpestando la dignità altrui, e questo in ogni epoca storica ci sono state delle varianti, in tutte le forme religiose, non possiamo dire uno è più cattivo, l'altro è più bravo, in tutte le forme religiose. Però ecco, ci fa capire come dobbiamo vigilare anche sulla percezione, sul modo di vivere la nostra spiritualità. Tutto ciò che viene dallo Spirito Santo, stiamo pur certi che è qualcosa che include l'altro, ama l'altro, si mette a servizio dell'altro, non porta alla rottura della comunione. Ciò che viene invece dallo spirito nemico, o meglio dal nemico, ha tutt'altro tono e si manifesta fino ad arrivare a delle forme aberranti di violenza per difendere chi? Per difendere Dio, ma Dio sa difendere se stesso da solo. Quando noi vogliamo pretendere di difendere Dio, forse quello che vogliamo difendere non è più Dio, ma un vitello d'oro, un idolo. E allora Paolo spiega che la grandezza della sua persona sta nella grande trasformazione che la grazia ha operato in lui. La grazia, quindi la gratuità dell'amore di Dio che ha bussato alla sua porta nonostante tutto. Grazie di cuore per questo suo intervento. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, è bellissima, le sue catechesi sono troppo belle, grazie. Io sono rimasta colpita dalla parte finale quando Gesù si è manifestato a San Paolo e lui voleva restare a Gerusalemme mentre Gesù lo ha indirizzato per andare in tutto il mondo, e in questa sua volere restare a Gerusalemme io ho visto come la resistenza che ognuno di noi ha di volere fare la propria volontà e non proprio quella di Dio, cioè di non capire che Dio ha un piano su di noi e di non avere proprio all'inizio quell'abbandono, cioè ci vuole un po' di tempo prima che ognuno di noi arriva veramente a capire quello che il Signore vuole, abbandonarsi e lasciarsi guidare. E questa cosa che San Paolo, la sua resistenza all'inizio, che voleva rimanere a testimoniare proprio a Gerusalemme, dove lui pensava di essere proprio più adatto a, come prova, diciamo, vivente della sua trasformazione, della sua conversione, la vedo anche in noi oggigiorno, in tante persone, in me stessa, in tutti, che tante volte resistiamo, non capiamo qual è la volontà di Dio e pensiamo di farla e invece non la facciamo perché ci inganniamo o resistiamo pensando di essere nel bene. Ecco, pensando di essere nel bene, ma magari non è quello che proprio Dio vuole. E la ringrazio di tutto quello che lei ha spiegato. Grazie. Allora, effettivamente è così, nel mio piccolo libricino L'Apostolo Paolo, no, proprio dedicato al percorso di vita dell'Apostolo, accenno a tre esperienze che Paolo vive subito dopo la sua conversione, sono tre esperienze di predicazione e sono tutte e tre esperienze fallimentari, cioè sono dei grandi flop di Paolo, il primo a Damasco, il secondo a Gerusalemme e il terzo in Siria e Cilicia, cioè Paolo subito dopo vuole mettersi subito a predicare, lo zelo che aveva per prima lo vuole ora utilizzare per il Vangelo, però i tre fallimenti lo aiuteranno a capire che la direzione che Cristo vuole dare alla sua vita è un'altra, c'è bisogno di tempo di ascolto, di tempo di come dire, far spazio all'azione di Dio e liberarsi un pochino del suo io. È proprio questo pian piano preparerà l'Apostolo delle genti con pazienza, con attesa, con tempi anche un pochino lunghi a diventare il grande Apostolo di tutte le nazioni. Quindi grazie di cuore anche per questa sua domanda. E cari ascoltatori, è terminato il tempo a nostra disposizione, quindi oltre a ringraziare quanti sono intervenuti con le domande che ci hanno permesso di approfondire ulteriormente la nostra riflessione, saluto tutti voi che siete stati in ascolto. Vi affido all'intercessione materna di Maria e anche allo stimolo costante dell'Apostolo Paolo che ogni giorno c'è davanti, ci cammina davanti con le sue lettere e con la sua testimonianza di vita. Un caro augurio e una benedizione a voi tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.